Incontri di Gianfranco Fabi. Vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri. Con queste parole, con questa musica di Fabrizio De André, diamo inizio all'incontro di oggi. Buongiorno e buona domenica a quanti ci ascoltano, buongiorno e buona domenica ad Aldo Bonomi. Buongiorno a lei e buongiorno a voi. Grazie mille Aldo Bonomi di essere con noi. Prima di spiegare chi è Aldo Bonomi, perché questo brano di Fabrizio De André, le nuvole nere, le nuvole bianche, le nuvole che si rincorrono, che fanno parte del nostro paesaggio e ogni tanto ci fanno ombra. Prima ancora della denominazione, e quindi le nuvole, perché De André fa parte del mio romanzo di formazione e Alda Merini, che è la poetessa che dà le parole a questa canzone, è una poetessa milanese appena morta che io amo molto, e poi perché le nuvole sono un simbolo del moderno, nel senso che rappresentano i flussi che ci passano sopra la zucca, passano sopra, sorvolano il nostro territorio, e a volte sono nuvole nere che scaricano crisi finanziarie, che impattano nei luoghi, li cambiano, e a volte sono anche segnali di speranza che lentamente, quando si fanno rose, dicono che forse riusciamo ad uscire da una dimensione di incertezza in cui siamo. E poi forse ci vuole anche un po' di poesia per interpretare questo mondo un po' troppo convulso, un po' troppo problematico, un po' troppo legato a molti aspetti concreti, ma che forse non sa emozionarsi più come un tempo. Beh, io devo molto della mia professione più alla letteratura, e quindi ad esempio sono uno che ritiene che il più grande sociologo urbano sia stato Italo Calvino, con il suo libro splendido sulle città invisibili. Se uno legge quelle metafore che Marco Polo racconta al Can, capisce qual è una delle forme di trasformazione della città, delle forme urbane, della modernità, i grandi cambiamenti. E poi perché ritengo anche che nella letteratura c'è una grande capacità di racconto e di interpretazione che molto spesso va oltre le aride statistiche e anche quella abitudine della mia professione a fare solo, diciamo così, sondaggi che poi non ci danno veramente il sentire e il pensare degli uomini. E quindi la letteratura, la poesia sono un mezzo che rimandano a un'interpretazione, a mio parere, più corretta del disagio che viviamo. E allora spieghiamo chi è Aldo Bonomi, sociologo, direttore del Consorzio Aster, un consorzio di ricerca e studi, soprattutto sul territorio, collaboratore editorialista del Sole 24 Ore, un attento osservatore della realtà economica e sociale italiana, ha scritto numerosi libri, in particolare su Milano, ma anche complessivamente sull'Italia. Quindi un punto di osservazione secondo un aspetto appunto sociologico. Ma cosa vuol dire fare il sociologo nella realtà attuale? Nella realtà attuale significa avere ed essere tormentato dai dubbi. Cerco di spiegarmi. Sia io che lei siamo figli del Novecento, e nel Novecento credo che entrambi, lei facendo il giornalista ed io facendo il ricercatore, ci muovevamo meglio. Mi spiego. Una volta era facile, bastava chiedere a uno: dimmi che lavoro fai e ti dirò chi sei. Ma non solo ti dirò chi sei, ti dirò anche dove abiti, tendenzialmente, se abiti nel quinto cerchio oppure nel primo, intendendosi le periferie e l'organizzazione del vivere urbano, e addirittura riuscivamo anche più o meno a intercettare le tendenze dei voti da questo punto di vista. Oggi si è fatto tutto più complesso, per dirla con molta virgolette semplicità. Oggi devi chiedere a uno: dimmi qual è la tua Weltanschauung, dimmi qual è la tua concezione del mondo, e con difficoltà riesci a dire: ma figurati te, per chi vota, ma fondamentalmente riesce a vedere quali sono le sue aspirazioni professionali, come vive, eccetera. Ma questo perché? Perché è cambiato il paradigma. Era facile nel Novecento, ai tempi in cui c'era l'egemonia culturale del fordismo, usiamo questo termine molto industriale, rapportarsi tra capitale, lavoro e Stato in mezzo. Da una parte la rappresentanza dell'impresa e del capitale, dall'altra parte la rappresentanza del lavoro, in mezzo la statualità che doveva redistribuire risorse e governo. Beh, mi pare che questo paradigma non basti più a interpretare i grandi cambiamenti. Io ultimamente, nel nuovo secolo, se si può usare questa parola grossa, uso un altro paradigma, cioè ho aggiunto un altro paradigma, che è quello dei flussi che impattano nei luoghi, li cambiano antropologicamente, i flussi sono le nuvole che arrivano, certo, dall'alto, impattano nei luoghi, li mutano antropologicamente, li mutano dal punto di vista dell'impresa, delle forme dei lavori, e in mezzo è apparsa questa categoria del territorio, che ovviamente non sostituisce la statualità, però sappiamo tutti che ci sono problemi incredibili rispetto a questo, e quindi è più difficile leggere, come è più difficile scrivere, come è più difficile fare racconto. Ma forse è anche più interessante, perché non c'è una realtà statica, c'è una realtà che si muove, che comunque è fatta di persone che interpretano questa realtà, che cercano di muoversi, che hanno bisogno anche di avere un'interpretazione forse difficile ma necessaria. Per questo, ad esempio, io ho titolato la rubrica che scrivo una volta ogni 15 giorni per Il Sole Microcosmi, ma perché la dimensione del micro, del locale dove impattano i flussi, serve poi a risalire. Non è che uno, non sono uno che fa né l'apologia né ha nostalgia delle comunità originarie o delle comunità rinserrate, men che meno rispetto a questo. Anzi, osservo come i luoghi cambiano rispetto ai grandi flussi della globalizzazione, del suo cambiamento, e quindi è il rapporto tra locale e globale. Se posso usare una parola grossa, in sociologese, se una volta usavamo solo la categoria della coscienza di classe per capire dove andavano le persone, oggi serve capire anche la coscienza di luogo, quanto un luogo ha coscienza di sé per andare nel mondo. Incontri. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Con queste note di Fabrizio De André, con queste parole di Ada Merini, continuiamo il nostro incontro con Aldo Bonomi, sociologo, direttore del Consorzio Aster, ricercatore sulla realtà italiana, titolare della rubrica Microcosmi sul Sole 24 Ore. Abbiamo detto microcosmi, cioè unire il piccolo al globale, un po' una, un mezzo, uno strumento necessario per capire il mondo, dove va, dove vanno le persone in questo mondo, che sono legate al territorio ma devono comunque pensare in maniera globale, pensare che poi la crisi che parte dagli Stati Uniti arriva rapidamente in tutto il resto del mondo. Aldo Bonomi. Beh, io credo che sia molto importante, se vogliamo parlare ad esempio della crisi, capire che quei flussi di cui parlavo prima, che sono le nuvole, hanno dei nomi e dei cognomi molto concreti. La finanza è un flusso. Chi pensava che gli scatoloni che abbiamo visto uscire dalla sede della Lehman Brothers poi avrebbero impattato sul costo non solo del denaro, ma sulle tasche dei nostri mutui e della vita quotidiana? Invece questo è avvenuto, ma non solo. Quanto questo avrebbe inciso rispetto al made in Italy, alla manifattura, alle piccole imprese? Le transnazionali sono un flusso che atterrano sul territorio, a volte si sollevano. Le migrazioni sono un flusso che arrivano nei luoghi e ci costringono, lo dico anche in termini positivi, a confrontarci con culture, stili di vita, e quindi dal micro al macro, dal micro al globale, confrontarci in questo mondo. Però è ovvio che tutti questi processi hanno indotto nella società forme di spaesamento, forme di incertezza, di cambiamento, anche perché tu i flussi non li controlli, arrivano sempre da fuori. Non è che tu puoi mettere tutte le barriere, quelli che hanno teorizzato i dazi doganali, eccetera, eccetera, e poi il mercato, questo potente fattore M neutro, arriva e comunque ti cambia le cose. E quindi il vero problema è che o tu ti attrezzi perché il luogo possa avere, e dico un terribile neologismo, una strategia global, cioè che va dal locale al globale e torna indietro, e quindi contaminandosi, perché ovviamente è chiaro che se tu vai dal punto di vista imprenditoriale dal nord-est in Romania o dal nord-est alla Cina o dal nord-est in Polonia, è chiaro che cambi te stesso, cambi le formule, ti arricchisci rispetto a questo. Quindi avere una dimensione che quella che ci aspetta è una società aperta e non una società chiusa, ecco, una società aperta con tutti i rischi delle società aperte. Questa Italia in questa fase, in questo 2010, è pronta ad essere una società aperta, ad essere aperta costruttivamente, conoscendo i problemi, i rischi, le difficoltà, ma anche con la forza di affrontarli? Ma dal punto di vista economico, nel micro, cosa è successo in quei 6 milioni di partite IVA di piccoli imprenditori? Sono successe tre cose. C'è stato una parte, un segmento di un'avanguardia gente che dentro la crisi che significava poi fondamentalmente difficoltà nell'internazionalizzazione nei mercati esteri, perché non dimentichiamoci che quando la crisi è apparsa la cosa che ci ha colpito è che c'era una differenza rispetto alle crisi precedenti, che mentre prima dicevi non tira più il mercato tedesco però c'è il Brasile che va, oppure l'India non va eccetera, in prima battuta hai detto non va più nessuno, ci siamo fermati tutti. Beh, dopodiché lentamente quelli che hanno preso le misure hanno incominciato di nuovo ad andare avanti, le avanguardie agenti. Poi c'è stato un blocco intermedio, un corpaccione che è ancora lì, che aspetta. E poi ci sono alcuni tanti, che hanno avuto tutte le difficoltà. Se mi è permesso raccontare alcune cose tristi che però mi hanno colpito, io ho scritto un microcosmo, ho dedicato un microcosmo ad esempio a quei piccoli imprenditori che si sono suicidati dentro la crisi, che secondo me sono anche loro morti sul lavoro, come quando giustamente rivendichiamo, celebriamo, ci arrabbiamo che ci siano dei morti nelle fabbriche, che si cade dai pontili, dai ponti di un edificio in costruzione, tutte queste cose, giusto, però ricordiamoci anche che ci sono stati imprenditori che non hanno, virgolette, retto quella simbiosi che nel capitalismo italiano c'è tra l'impresa e il progetto di vita, hanno visto una difficoltà rispetto a questo. Quindi mi piacerebbe ricordarli questi tre comportamenti che mi inducono a dire che il grosso del tessuto ha tenuto, quello di cui ero preoccupato dal punto di vista economico, e che saltasse, so che è una parola abusata, il modello, no? Cioè col modello dei distretti, delle piattaforme produttive, dell'economia diffusa, dico vabbè, forse chissà se tiene, mentre invece per l'ennesima volta il calabrone ancora riesce a volare, no? Dal punto di vista sociale, se devo ragionare dentro questi grandi frammenti di cambiamento e cercare di fare una sintesi, io individuo tre grandi comportamenti collettivi e che rimandano, se posso usare una parola delicata e pesante, a una voglia di comunità, la comunità che non c'è più. Una tendenza che mi fa paura è che c'è una grande voglia di fare comunità rinserrata o comunità rancorosa, cioè ci si mette assieme per escludere l'altro da sé. A fronte, devo dire, per fortuna, che questo paese ha ancora molta ricchezza di quella che io chiamo una comunità di cura. Non vorrei essere frainteso, cura non significa solo volontariato, associazionismo, non significa essere buoni. Quando dico comunità di cura intendo dire quell'eredità che abbiamo preso dal Novecento di quelle professioni che per loro vocazione devono produrre inclusione. O diciamo quelli che lavorano comunicando. Un giornalista, pertanto visto che siamo qua, lavora comunicando ma dà informazione affinché i soggetti sociali siano più informati, più educati e possono più partecipare. Io interpreto così. Un medico dà cura, uno psichiatra che si occupa del disagio psichico, un insegnante, pensiamo alla cosa importantissima rispetto a questo, comunità di cura. Il vero problema è che non si può leggere la società solo i buoni contro i cattivi. Bisogna mettere in mezzo, e qui è un terzo punto di ragionamento, quello che io chiamo la comunità operosa. La comunità operosa, intendendosi per comunità operosa, tutti coloro che fanno professione, fanno economia, cioè io spero che ci sia un blocco sociale, se posso usare questa terminologia gramsciana, che verrà in cui gli operosi che affrontano il rischio della globalizzazione, le grandi difficoltà del fare impresa, del fare professione, di fare precariato dentro il ciclo della creatività, eccetera, si alleino con questa capacità di cura della società e disegnino un futuro possibile. Sono preoccupato se penso che si va a rinsaldarsi tra rancorosi e operosi che ci vanno nel rancore. Certo. È un destino che non mi piace. Indubbiamente l'Italia ha tante risorse in questo senso, e auspicare che questa terza via possa essere quella che conquista la maggioranza è certamente un fatto positivo. Un'Italia che però, come è vista dall'esterno? Lei è stato a Shanghai, ha anche progettato almeno in parte il padiglione italiano. Che sensazioni si hanno quando l'Italia si presenta all'esterno? Beh, la mia parte nella progettazione che abbiamo fatto come triennale del padiglione italiano è stata quella, in primo luogo, di chiederci con un gruppo di indirizzo in cui abbiamo messo 40 soggetti delle elite italiane, poi abbiamo fatto interviste in tutta Italia per capirci, se posso fare due nomi, dal banchiere Alessandro Profumo all'allora mio direttore del Sole 24 Ore De Bortoli, ecco, ci siamo messi intorno a un tavolo a ragionare dicendo: come secondo voi cosa ha l'Italia rispetto alla Cina che voi frequentate, che noi frequentiamo? Beh, siamo arrivati a due conclusioni. Uno, la prima cosa, l'Italia è un luogo, è uno dei tre luoghi globali del made in China, made in Germany, made in Italy. Vero problema, questo made c'è ancora, è un patrimonio del sistema paese, dentro questo siamo in grado di, qui si producono cose, c'è un terreno di manifattura dentro il quale si incorpora quello che è il secondo punto, che è lo stile di vita italiano. Intendendo per stile di vita italiano una cosa molto importante rispetto al tema dell'Expo di Shanghai. L'Expo di Shanghai è sul tema Better City, Better Life, cioè come rendere una qualità della vita nel destino delle megalopoli che ci aspetta rispetto a questo. Beh, io credo che noi abbiamo una cosa da rappresentare. Noi siamo il paese delle 100 città. Lo paghiamo molto spesso come forza dell'identità nazionale. Certo. No? Quante volte discutiamo il rischio di secessione, il rischio di divisione, siamo ai 150 anni e siamo tutti ancora mosci, nel senso che non c'è una forza potente rispetto a questo. È un rimpianto che abbiamo tutti quanti ne discutiamo, però non dimentichiamoci che in questa debolezza c'è in parte anche la nostra forza, che sono quelle 100 città che ci hanno permesso, ad esempio, di risolvere storicamente, in maniera non conflittuale, il rapporto tra città e campagna. Io sono terrorizzato perché quando tu arrivi a Shanghai, benissimo, vedi questa potenza dei grattacieli che va ben oltre. Nessuna città italiana ha una capacità di potenza di questo genere. In confronto, il nuovo Pirellone in costruzione a Milano è una cosa ridicola. Ecco, uno torna da lì e dice: ma attenzione, grattiamo dietro quei grattacieli e vediamo che quella che per noi è la Brianza, perché grattando dietro questo grattacielo è la Brianza operosa, lì è una campagna in cui il problema città-campagna è ancora tutto da risolvere. Ci avviamo purtroppo alla conclusione, ma voglio fare un'ultima domanda proprio partendo dall'Expo di Shanghai. Milano ha un obiettivo, l'Expo 2015, ce la faremo? Io auspico, o vedo, leggo i giornali e capisco, se posso usare un'espressione poco fine, che c'è un grande casotto, insomma, no? Che non c'è molto ordine intorno a questa cosa, se ne discute molto. Posso dare un solo consiglio: si torni al progetto iniziale. C'era un'intuizione che mi era piaciuta nell'Expo, no? Gli Expo, usiamo questo plurale che non andrebbe usato, per tutto il Novecento erano la rappresentazione di un capitalismo che aveva nella potenza della tecnica, nella potenza dell'economia, la capacità espansiva nel mondo. Tant'è vero che sono stati interrotti solo da due eventi altrettanto potenti, le due guerre mondiali, che hanno interrotto questa logica del Novecento. Gli Expo del nuovo secolo hanno incorporato il concetto di limite. Saragozza aveva l'acqua, il limite della risorsa acqua. Shanghai, il limite del better city, better life, delle megalopoli. Milano aveva azzeccato il tema, nel senso, dice: problema alimentazione, qualità della vita e alimentazione per tutti. Se gli Expo nell'epoca moderna sono dei momenti di riflessione collettiva sul limite, beh, facciamolo questo e costruiamo un momento in cui non avremo certamente la potenza dei numeri cinesi, ma dal punto di vista qualitativo fare di Milano una riflessione altrettanto utile, poi soprattutto, se posso chiudere, dicendo che siccome stiamo pensando di uscire dalla crisi con la green economy, quale migliore occasione, certo, di discutere di green economy come soluzione, virgolette, per una qualità della vita migliore. Una qualità della vita che è anche sostenibilità e anche capacità di affrontare con risorse e soluzioni nuove dei problemi nuovi come quelli che abbiamo visto, e sono tanti, comunque con la fiducia di guardare al futuro. Su questo possiamo condividerla, questa fiducia. Io ringrazio Aldo Bonomi di essere stato con noi questa mattina, ringrazio Pietro Locorte in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica a tutti.